gelosia. Io sentivo che non eri mia, preda di una sensazione strana. Hai diviso quello che era mio. Io speravo di essermi sbagliato, ma alla fine è dato per scontato nei tuoi modi d'amare. Lunatica e gelata, non mi resta di archiviare tutto nel libro del mare. Sono stanco di annegare sempre nelle tue parole. Sento ancora odore di un profumo che non mi appartiene. Fa troppo male. Sono io stasera che sarò più brava a recitare. E so bene che lo faccio male, ma devo provare. Prenderò soltanto poche cose e me ne devo andare. Lontano via da te. Dai non ridere, faccio davvero. Sì, una cosa non m'appartiene. Tanto io per te non valgo niente. Sono stato sempre indifferente. Spero solo di recuperare il valore e il senso dell'amore che mi hai dato male. Tra ipocrisia e dolore, non mi resta di archiviare tutto nel libro del male. Sono stanco di annegare sempre nelle tue parole. Sento ancora odore di un profumo che non mi appartiene. Fa troppo male. Sono io stasera che sarò più bravo a recitare. E so bene che lo faccio male, ma devo provare. Prenderò soltanto poche cose, me ne devo andare. Lontano via da te. Stasera che sarò più bravo a recitare. So bene che lo faccio male, ma devo provare. Prenderò soltanto poche cose, me ne devo andare. Lontano via da te. E basta fingere. Dimmi che senso ha. A che serve rimanere? Tanto hai dato un prezzo a tutto quello che sei. Stasera che sarò più bravo a recitare. E so bene che lo faccio male, ma devo provare. Prenderò soltanto poche cose, me ne devo andare. Lontano via da te.